amici, ma la condizione è che il movi è fatta, è poco agibile e quindi risulta sempre l'ingegno di un suonato. Un'antenna ben fatta, lui quando vado a fare le installazioni, non è che quando salgo sul tetto devo accordare l'antenna, capisci? Il proprietario mi butta giù a fucilate. Quindi tutte le che installo io, sia TV che pellicce trasmettitori, sono già calibrate, tarate, pronte, fatto. Se poi la devo fare io e so che mi appassiona la cosa, non deve essere un marchingino complesso più di tanto, perché in base alla complessità poi funziona, è capace che non funziona pure, come in questo caso, ponticelli contro ponticelli adattori, ma che siamo diventati matti? Ma che stai facendo? Stai illuminando un Reifel? E forse la migliore pompa, però è che ti sento, lui sta coprendo il fruscio, che magari è meglio della morga in pompa. E il problema è questo, il problema è che queste cose sconnesse, fatte da persone sconnesse, perché effettivamente chi ha fatto quell'antenna lì, il cervello, non gli funziona, capisci? Anche perché uno deve essere chiaro, quando gli fornisce un progetto, se fornisco un mio modulo, no? Che sia di bassa frequenza che di alta frequenza, ti dico come è costruito, ti fornisco form, tutto, se le vuoi te le fornisco. Bene, al modo che se io pubblico, che adesso un sound practice, che è una rivista americana o una rivista italiana, pubblico qualcosa, il neofita che va a costruire quell'apparato non viene sui problemi ed è perfettamente funzionante. Non è che poi deve inventarsi la formula magica per sentire la musica, non esiste. Ecco, quindi quando si pubblica una cosa che è di poca affidabilità, l'unica soluzione è il tornaio, quello di riportare al tornaio. Però ricordati di comprare per i lampadari quelle specie di affari di cacca che facevano all'antica, magari vai da qualche tuo nonno e te li fai prestare e poi lo pubblichi, la pubblichi appesa sopra il tornaio, vedrai che la fanno. Iscrivo pilagini perché sono senza testa, sono persone che non hanno cultura, perché una persona che ha cultura innanzitutto pubblica un qualcosa, spiega dettagliatamente come bisogna fare, che ne so, 40 metri e sei accordato. Invece cosa dicono? Ma buscati un analizzatore, ma ascolta, chiamiamo l'ingegnere della NASA, la mettiamo a punto, va bene? Una persona neofita come te e come tanti altri, ma un professionista, perché alla fine dà fastidio anche un professionista un'antenna del genere, perché uno deve calcolare distanze, rapporti di impedenza, valori di impedenza in confronto all'altezza, punti di risonanza. E un'altra cosa, un'antenna che è perfetta risonante non è detto che abbia un buon rendimento, ricordalo. Queste sono lezioni che ho fatto con ingegneri che hanno i coglioni più grandi di un calarmatto. Non è detto che abbia un perfetto rendimento, perché ricezione ti può avere di trasmissione come si comporta. Io ho visto antenne a basso rosso che non andavano un cazzo. L'unica che fa l'analizzatore d'antenna è pisciare di secchio, capisci? Se una cosa va, una cosa dice, ma poi vedi, è sempre, è ancora più macchinoso, è ancora più macchinoso un analizzatore d'antenna. Per montare sul dipolo non basta la radio. Basta la radio, è un calcolo semplice, come si fa l'antica. Quando uno deve fare ricorso agli ingegneri della NASA per mettere su, no, un portalampade da tornaio, mi pare sia una cosa troppo eclatante per i miei gusti. Io preferirei sempre, sempre avere conoscenza in materia e fare le cose dettagliatamente, ordinatamente. Tu quando dai una medicina che ti dicono, aia mi fa male o all'altro, tu come dottore, perché sei al banco, consigli il cliente, perché hai conoscenza di quello che stai facendo. Non è che tu se ti chiede acqua gli dai vino, questa è la differenza, Luigi, e tu sai benissimo cosa significa dare una cosa azzeccata. Se ti chiede acqua e vino, glielo metti in due distinti recipienti e gli spieghi che uno è acqua e l'altro è vino, perché l'ignorante non conosce quello che sta facendo. In questo caso chi ha consigliato di fare questo lavoro, no? Di mettere su isolatori, PVC, ritorni, controllatori, cave, eccetera, è sicuramente uno che ha solo sperimentato, ma non ha condizioni tecniche, ha il cervello, l'ultimo neurone che gli è rimasto è bruciato. Continua. Ok, perfetto. Sì, va bene, valore della porta di impedenza, ci sono conduttanti, ma il discorso è questo. Questo somaro che è andato a fare questa antenna, perché è un somaro, no? Poi si è messo lì a fare il difficile. Invece che lui è tanto intelligente, perché? Come non funziona? Guarda, io ho visto antenne che avevano il rosso a 2, le ho sollevate ed è salito il rosso a 3. Allora, un'antenna deve avere, deve essere installata come minimo a 4 lunghezze d'onda della... Scusate, mi stanno chiamando. Sì. E no, mi stavo parlando con due o tre clienti, mi stava chiedendo dei consigli digitale, cose, malassorti, postazioni, lasciamo perdere, di solito tram tram, niente di particolare. E sì. Quindi stavo dicendo che lì se ti fa un bel dipoletto, non sei conto adesso. Ma buttano nell'immondizia, ascolta, prendi il filo, anche spezzato, prendi il saldatore, non i punti dove lo salti, e poi ci metti vulcanizzato sopra, ci sei, lo ringi tutto e ti fai un invert, ok? Poi fai una cosa, agli estremi li pieghi, li torni verso il palo, ok? E quindi tipo ripiegato dovresti accordarlo perfettamente e lo metti come cazzo vuoi, anche un metro le cose a terra. Stavo dicendo comunque che le antenne vanno a quattro lunghezze d'onda, solitamente vanno messe per andare bene, per fare in modo che i lobi dell'aviazione, no, siano più di due, capisci? Perché quando in basso così ha poco lobo di aviazione, quello è il problema. È una cosa che bisognerebbe vedere a tavolino e fartela capire così. Io l'ho già studiata, non sono anni che studio queste cose, sia il settore TV che il settore di trasmissione. Però anche di questo, ma alla fine perché tutto questo bordello, se fondamentalmente si può risolvere con un bellissimo dipolo, capisci? Fatto bene, su lì, boh, ti dura 100.000 anni. Sì. Dai che andare a cenare. Gin, buttala nella mondezza. Allora, sono palliativi per far capire agli altri che sono. Quel somaro che ha fatto quell'antenna lì, ricordati una cosa, il cervello, i brulica, di spidaggini, perché non puoi consegnare a un amico così un'antenna del genere che poi sta tutto giorno sui tetti con rischio che sfasci tutte le tegole o bisesse tutte le piante del giardino perché guardi in alto se sta risuonando sugli 80. Ma questa è roba da fantuzzi, cazzo, roba da fantuzzi. Ma fai due di pulizie di recenti e mettili lì, cosa stai a perdere tempo con questi giocattoli fatti da questi teppisti della radio? Ma lascia perdere, è tutta gente incompetente che si sono dati aria da una vita, che montano il cervello, uffiti qui, che hanno preso la radio così giusto per avere una buona antenna e fanno di questo. Secondo me sono d'accordo con i direttori dei manicomi. Ecco, già oggi ci sentiamo con fame, alle prossime. Che roba, tanto noi se le voglio. Ciao, ciao.